Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Potrebbe essere martedì 22 gennaio, il momento in cui state ascoltando questo inizio di Eclettica, o potrebbe essere un qualunque altro giorno, nel caso di un'eventuale replica o nel caso di una vostra scelta, grazie al podcasting che vi garantisce l'ascolto nel momento che preferite, con il supporto che preferite, di qualunque volume di Eclettica. Giulio Caperdoni in vostra compagnia con la sua musica, le sue letture e le sue scelte cinematografiche. E adesso dove? Quando? Chi? Senza chiedermelo, dire io, senza pensarlo, chiamare le domande, ipotesi, procedere innanzi e questo, definirlo andare, definirlo procedere. Può darsi che un giorno, ho fatto il primo passo, io ci sia semplicemente rimasto. Rimasto dove, invece di uscire, come era mia vecchia consuetudine, per trascorrere giorno e notte il più lontano possibile da casa mia. Ma non era poi tanto lontano. Può essere cominciato così. Non mi rivolgerò più domande. Questo era l'incipit dell'Innominabile di Samuel Beckett. One. Are you cracking wise? I ought to punch you in the nose, Hopscotch. Leave him alone, Gus. You got it covered, right, Larry? Yeah, I got it. You better get it. But Gus. Come on, like gangbusters, laying it thick. A boreal lee stack, lost in the sticks. It's warm for a witch trial, don't you agree? Cold are the hands that would ever touch me. Of a classic creep with sex vibe for miles and shark eyes asleep. No intuition, no need to sleuth. Poor is the man who would sully my song undeveloped beyond the first bar. For all of your hassle, what did you win? Woe is the man with the Cheshire Cat grin. stato un inizio tutto statunitense quello di Eclettica di quest'oggi, di questo volume, e si proseguirà anche con gli Stati Uniti. Ursula Points hanno aperto con Soft Noon e poi Stephen Malkmus ancora, accompagnato dai The Jigs per la sua nuova Baltimore. Ora ci si trasferisce invece a Minneapolis, da cui proviene un duo che arriva all'esordio su lunga durata grazie alla Cranky, album dal titolo The Patron e duo dal nome To Kill e Petty Bourgeoisie. Mettono assieme melodie estranianti e crescendo distorsivi, come per esempio anche nel pezzo che io sono andato a scegliere, intitolato Lovers and Liars. Dal suo giaciglio ella vede spuntare Venere, ancora. Dal suo giaciglio, con cielo sereno, vede levarsi Venere, seguita dal sole. E allora se la prende con il principio di ogni vita, ancora. La sera, con cielo sereno, assapora la sua rivincita, a Venere. Davanti all'altra finestra, seduta diritta sulla sua vecchia sedia, spia la radiosa. La sua vecchia sedia di abete, con spalliera e senza braccioli. Emerge dagli ultimi raggi sempre più luminosa, declina e si inabissa a sua volta. Venere, ancora, diritta e impalata, resta là nell'ombra che cresce. Questo era l'incipit di Malvisto, maldetto, di Samuel Beckett. I'll start with you. If you start with me, we can start together, maybe start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want to alliterate with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really. Got a good meter going when we grind. We slant to the beat and we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. You and I are meant for each other. A literary device along ridges, but together we're love lovers. I will kissing miss. Hurts, but it's all worth the pain. Oh, if only for the little letters. Hearts by my name. I love you forever. Oh, I love you forever. What I'd give to have spent these last 4 years together. You and I are meant for each other. A literary device. Alone we're just put words. Together we're lovers. Together we're lovers. The Pterodactyls con i loro strumenti giocattolo per Devices, brano in cui gli ha dato una mano Kimia Dawson, un nome, quello di Kimia Dawson, che sicuramente avremo occasione di conoscere meglio, in quanto è la protagonista della colonna sonora di Juno, film uscito negli Stati Uniti nelle scorse settimane che sta riscuotendo un grande successo. Viene definito il nuovo Little Miss Sunshine, non so per quale motivo, non avendo altri dettagli sul film Juno, ma Little Miss Sunshine mi era piaciuto molto, questo lo so. Chiudiamo questa prima parte del volume numero 2 di Eclettica con una produzione di un artista che sicuramente non si prende mai un giorno di riposo. Lui partecipa già a 3 progetti, Destroyer, Swan Lake e The New Pornographers, e assieme a quella che è la sua donna ha deciso di mettere un altro gruppo. Lei si chiama Sydney Vermont, ha messo in piedi questo gruppo di nome Hello Blue Roses, che esce il 22 di gennaio per una etichetta di Chicago di nome Locust Music, disco dal quale io vado ad estrarre Sunny Skies. Here is as good as a town without matter. room quick. And the most important thing of all to remember, don't let anything in or out. Out? Good luck, son. Night, Gus. Young buck, cracking wide.